peanuts, all peanuts. Salt peanuts, salt peanuts. Salt peanuts, salt peanuts. Salt peanuts. Jazz on megahertz. Salt peanuts, salt peanuts. Salt peanuts, salt peanuts. Alla console, Sandro e Alfredo. Salve a tutti, sono Sandro Baroni da Salpinaz. Oggi ascoltiamo tre novità che fanno parte dell'ultima produzione di un'etichetta portoghese che è ormai tra le più accreditate a livello internazionale per quanto riguarda anche la presentazione delle avanguardie nell'ambito del jazz. Si tratta della Clean Feed, un'etichetta che ha una dozzina d'anni che produce con... individuando, diciamo, nel tempo anche una linea editoriale piuttosto definibile. Sono produzioni che sono attente sia alle nuove proposte europee che si muovono sia nell'ambito dei paesi scandinavi, del centro Europa, ma anche di quanto succede oltreoceano. Ormai il catalogo è molto nutrito, anche la qualità di proporre costantemente, anno dopo anno, una produzione molto sostenuta di nuovi dischi. E recentemente ne sono usciti diversi, e ne ascoltiamo tre da questa serie. Il primo musicista che ha ormai al suo attivo una nutrita serie di registrazioni discografiche, ma che è ben poco conosciuto in Italia, si tratta di Harris Eisenstad, un batterista canadese che da tempo propone una propria visione creativa estremamente interessante. Sono varie le formazioni con le quali incide e il disco che dal quale ascolteremo un paio di brani è un lavoro in trio intitolato The Destructive Element, e questo trio è un trio particolare formato da piano, batteria e sax tenore. Eisenstad alla batteria, al tenore Ellery Eskelin, quindi che naturalmente sottolinea con le sue straordinarie qualità timbriche e anche nel fraseggio intelligente, profondo e molto legato alla tradizione del sassofono nel jazz, e al pianoforte Angelica Sanchez, pianista che peraltro ha avuto modo di dimostrare una crescita artistica di spessore. Direi che attualmente è sicuramente una delle pianiste più interessanti come linguaggio. Quindi una formazione timbricamente interessante, un po' diversa, è alla sua seconda prova questo disco. Già aveva inciso sempre per la Clean Feed un paio d'anni fa con la stessa formazione, dando prova di un ottimo risultato, che viene confermato peraltro anche in questa occasione con questo ultimo lavoro. Ascoltiamo un paio di brani, sono tutte composizioni di Eisenstad, e da notare come la vena compositiva di Eisenstad è molto legata al blues e alla tradizione della musica nera americana. Ascoltiamo. Era il trio di Harris Eisenstadt, batterista canadese, accompagnato al sassofono da Ellery Eskelin, tenore appunto, e Angelica Sanchez al pianoforte. Un disco uscito recentemente, intitolato The Destructive Element, per l'etichetta Clean Feed. Un altro lavoro recente è di un gruppo, diciamo perlomeno guidato da un contrabbassista portoghese. Sono due musicisti portoghesi accompagnati poi da un sassofonista canadese, anche in questo caso. Il gruppo si chiama Lama, aveva già inciso 2 anni fa, sempre per la Clean Feed, riscuotendo un grande successo da parte della critica soprattutto, naturalmente, perché si tratta sicuramente di musicisti ben poco conosciuti. Comunque si aspettava il secondo lavoro, che è arrivato appunto recentemente, con un ospite aggiuntivo alla formazione in trio e un ospite di riguardo. Si tratta di Chris Peed, che appunto soprattutto col clarinetto e al sax tenore. La formazione è formata, del trio, di Susanna Santos Silva, una trombettista, una ragazza trombettista che risente delle influenze di una certa scuola chicagoana, da Bill Dixon, un certo lirismo suggerito dalla vena artistica di Bill Dixon, oppure anche altre esperienze poi dagli anni 70 in poi. Comunque un bel suono e un buon fraseggio. Il contrabbasso, che è anche leader della formazione, Gonzalo Almeida, e alla batteria Greg Smith, batteria elettronica, percussioni. È una formazione che si è riunita occasionalmente in un festival, si è trovata occasionalmente in un festival a Rotterdam e che poi ha consolidato la propria collaborazione, appunto proponendo come suo secondo lavoro anche un ospite come Chris Peed. Bisogna dire che il primo lavoro aveva sorpreso per la vena compositiva interessante, anche diversa dagli schemi, diciamo, più consueti. In questo caso l'aggiunta di Chris Peed, pur avendo una qualità solistica straordinaria, condiziona probabilmente per la propria personalità anche importante, condiziona il risultato complessivo del lavoro, che si avvicina maggiormente allo stile de Claudia Quartet, quindi qualche cosa di cameristico, però appunto sempre di buon risultato, di buon livello. Ne ascoltiamo un paio di questi brani, che il primo è quello che dà anche titolo all'album, si chiama Lama Cal, e il secondo Anemona. Tutte le composizioni sono appunto di Gonzalo Almeida, il contrabbassista. Thank you. Questo era il gruppo Lama, un gruppo, diciamo, di connotazione portoghese, guidato dal contrabbassista Gonçalo Almeida, con la trombettista Susana Santos Silva, accompagnati dalla batteria di Greg Smith e al clarinetto, soprattutto al clarinetto l'abbiamo ascoltato, Chris Speed, che ancora una volta dà prova di una maestria straordinaria con questo strumento. Un buon disco, anche se non a livello del precedente, è uscito anche questo recentemente, negli ultimi mesi, un disco intitolato La Mahal. Il prossimo e ultimo disco dal quale ascolteremo un paio di brani è quello di Mark Dresser. Mark Dresser, che è un veterano, è un contrabbassista che ha fatto parte di quello che è stata un po' tutta l'avanguardia dagli anni 80 in poi, partecipando a un'infinità di progetti diversi. Fa parte anche lui, come molti altri, della schiera innumerevole di musicisti, allievi di Braxton. Suona con la maggior parte dei personaggi più rappresentativi dell'avanguardia, da John Zorn a Tim Berne e a molti altri. È spesso, perlomeno nei dischi a suo nome, ha una vena compositiva classica, importante, interessante, che dà nelle sue composizioni dà una connotazione originale. Qui guida una formazione nuova, inedita, come peraltro spesso avviene per i musicisti che non hanno un gruppo diciamo costante. E guida una formazione con Rudresh Mantappa al sax contralto, che a mio avviso è decisamente uno dei musicisti più interessanti, più bravi dell'ultimo decennio. Michael Dessen al trombone, che questo è un trombonista meno conosciuto, che ha fatto anche lui parte di varie esperienze legate all'avanguardia, diciamo, di connotazione braxtoniana. E poi al pianoforte un pianista West Coast, più noto nell'ambito della musica contemporanea che non del jazz probabilmente, si tratta di Denman Maroney, un musicista californiano, interessante il suo pianismo, anche i lavori al pianoforte preparato. Poi due batterie di lusso, si tratta di Tom Rainey e Michael Sarin, batterie di lusso e anche, come dire, collaboratori di vecchia data con Mark Dresser. Il risultato è a mio avviso molto positivo, le composizioni sono belle e naturalmente i solisti sono di alto livello, per cui il risultato è conseguente. Il disco è intitolato Nourishment. Ascoltiamo un paio di brani, due composizioni, entrambe naturalmente sono di Mark Dresser, come peraltro tutte le altre. Thank you.

Questo era il gruppo di Mark Dresser, il quintetto di Mark Dresser, con il suo ultimo lavoro, Nourishment, una formazione direi di altissimo livello, anche musicisti diversi tra di loro come percorso stilistico. Soprattutto è evidente l'importanza di Rudresh Mantap al sax contralto, che si esprime al massimo con questo suo fraseggio che prende dalla bass music di Steve Coleman. Poi Michael Dessen al trombone, Denman Maroney al pianoforte anche preparato, pianoforte elettrico in altri casi, e due batteristi, Tom Rainey e Michael Sarin. Sono composizioni interessanti che risentono un po' di sapori anche i più diversi nell'esperienza musicale vasta di Mark Dresser, che si conferma un contrabbassista straordinario, e il lavoro è in questo caso è decisamente, a mio avviso, ben riuscito. Era anche questa una delle ultime uscite, ultime novità prodotte dall'etichetta Clean Feed, che si conferma come una delle produzioni di punta più attente all'evolversi del linguaggio della musica neroamericana. E peraltro bisogna dire che in Europa risiedono probabilmente le case discografiche più titolate e con esperienze più interessanti. Naturalmente basta citarne una per tutti, l'ECM, che ormai ha acquisito un'importanza, un catalogo enorme, ma anche molte altre, anche produzioni dalla Polonia oppure dai paesi del nord Europa. E questo era l'ultimo ascolto per oggi. Vi ricordo che le informazioni relative a tutta la trasmissione, anche la registrazione della trasmissione, la potete ascoltare in podcast nel nostro sito radiocittafugico.it nella sezione musica. Questo è tutto, salve, alla prossima. Sal Peanuts. Jazz on Megahertz. Sal Peanuts. Alla console Sandro e Alfredo.